Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Siamo qui, caro Oscar. 8 e 18 minuti. Eccoci. Questo 8 febbraio. Questo 8 febbraio. Ci siamo. Beh, ci siamo. Come Sanremo. Sì. Magari durassimo come Sanremo. Ti rendi conto? Oh, oggi, vabbè, ieri oggi andiamo di bomba. Hai esordito così Sanremo, no, no, no. Mamma mia ragazzi. Annaggia. Forse bisogna farsi crescere. Chi lo sa, forse se mi faccio crescere devo proprio farli finti però i dreadlocks in testa. I dreadlocks, sì, Rastafariano, che dici? Mamma mia. Vabbè, niente, Sanremo. Ma secondo te il tuo idolo, cioè questo qua, questo qua è più famoso per quello che scriveva nelle canzoni come inno politico eccetera eccetera, o davvero secondo te per le canzoni che scriveva? Ma no, ma per il punto di vista musicale, come il punto di vista musicale ha totalmente spaccato una generazione con il ma ha spaccato una generazione, sono d'accordo, anche di Vasco Rossi lo diciamo ieri che era l'inno della generazione, spaccato, e Lorenzo fa ma il gesto della stiamo canna, parlando di innovazione veramente... musicale. L'innovazione musicale, come ovvio, in questo genere non c'è, in questo ritmo. Ma cosa stai dicendo? Questi sono inni politici. Ma lo ska e il reggae erano confinati alla Giamaica, lui li ha portati in tutto il mondo. Vero, lui, Peter Tosh, gli altri dei Wailers che poi litigarono incessantemente, sì, come sai. Certo, anche con Peter Tosh. No, io lo so Peter qual McIntosh. È il modello tuo e che tutti i figli che lui ha avuto, questo è il punto. Io sono convinto che sia questo, nessuno me lo leva dalla testa. Però sono andato infine in Giamaica per toccare il letto in cui è nato. Ah, a Nine Mile. Oh, vedi, ecco. Un sano equilibrio, un sano equilibrio. Mamma mia. Ma vedi, ma vuoi mettere adesso, scusami, non puoi metti sulla bilancia ideale da una parte e dall'altra, senti qualche roba eh? Poi voglio dire, i testi, lo sai che nel testo di questa canzone ci sono espressioni di amore fisico belle, san pazzesche, che per l'epoca, stiamo parlando qui, capisci, 1969, ma sì, ma male era la politica, capisci? Allora tu sei uno scettico verso la politica e poi c'hai l'inno di Bob Marley. No. Comunque dai, noi secondo me dobbiamo cambiare un po' Sanremo. Genere. Dobbiamo fare una scelta di brani musicali quotidiana, a seconda di quello che succede dai giornali. Mm-hmm. Secondo me potrebbe essere, certo, ci dobbiamo pensare, certo. Ma potrebbe essere tipo un modo. A Roma c'è un bel rock, un rock duro in questo momento, balla, no? E chi lo sa, perché dipende, perché secondo me a quel punto ogni grande fatto del giorno dovremmo dare, come siamo in Italia, cioè partiti contrapposti, per alcuni è molto rock, per altri invece un lento motion, come dire, no? Allora, senti, io volevo dire due cose. Oggi ci sono, come sì, santi come sempre, oggi San Girolamo Emiliani, fondatore dei Padri Somaschi. A me i Padri Somaschi piacciono perché sono sempre dal 500, il loro fondatore, appunto, San Girolamo Emiliani, un nobile che perse il castello, era un militare, lì si converte e si dedica all'assistenza dei poveri e soprattutto dei giovani abbandonati. Muore assistendo i malati di peste a metà del 500. I Padri Somaschi mi sono sempre, devo dire la verità, piaciuti. E detto questo, però, io volevo spendere, a proposito dei santi, all'inizio due parole sulla lettera di Michele prima del suicidio, di cui tu hai già parlato, perché mi è stata segnalata ieri da molti ascoltatori in Friuli, perché era segnalata dal Messaggero Veneto e così via, e questo ragazzo, giovane, trentenne, che si toglie la vita, perché lascia scritto ai genitori, a parte la frase contro Poletti, ma insomma l'amarezza, ma insomma è il visto da molti che leggono questa lettera amarissima, e io devo dire rendo anche merito ai genitori che hanno deciso di pubblicarla. Ecco, le parole amare di chi dice il mondo doveva accogliermi e invece non mi ha accolto e non mi merita, io non ce la faccio più tutti i giorni a fare il bilancio delle mie arrabbiature, delle mie delusioni. Non ho la forza di impormi. E adesso basta. Fate voi i conti con me, non sono io che faccio i conti con voi, non arrabbiatevi. Ecco, questa lettera secondo me comunque fa molto riflettere, perché è un segno di un tratto, io non generalizzo mai, di una generazione che si è trovata sballottata, che è convintissima che appunto gli si debba un trattamento diverso, non lo vede intorno a sé e arriva a questo gesto estremo di togliersi la vita. No, ma sicuramente fa riflettere. Io quello che ho notato è che utilizzarla sui giornali per tirarla da una parte e dall'altra, in realtà noi non conosciamo bene il tormento che questo... Ma è un tormento che non riguarda solo il lavoro, ma riguarda complessivamente la sua vita, tanto è vero che poi parla anche delle questioni affettive, però questo spaesamento di fronte al quale la vita non ha più il senso di essere vissuta. Ecco, a me ha colpito per questo. E agli ascoltatori che me l'hanno segnalata, Vito il commercialista che ringrazio, con cui abbiamo scritto a lungo ieri sera, erano colpiti da questo, erano tutti trentenni gli ascoltatori e dicevano: io per primo, naturalmente mi do una risposta diversa, ma molte di queste cose le avverto intorno a me. Da una parte ci aver dato a una generazione l'idea meritate chissà quanto, che è un po' un'idea sbagliata, perché ogni generazione la cosa la deve prendere, perché il mondo non è lì ad aspettarci, questa è la mia modestissima esperienza. No, ma anche perché un conto sono le riflessioni, quando però vedo sui giornali il tirarlo a utilizzare anche questo dramma, perché poi è un dramma, dicendo vedi il precariato cosa ti porta, ma insomma, e lì è la frase contro Poletti finale, voglio dire, ma c'è. Che sappiamo in realtà di tutto quello, di tutto quel mondo tormentato che ha portato questa persona a fare questo gesto. Quindi su questo io faccio sempre un passo indietro, un passo avanti. Di fronte a una cosa che di questo c'è, capisco il tuo atteggiamento. Volevo semplicemente parlarne all'inizio, perché sono le classiche cose trasversali. Insomma, non c'è solo Sanremo. Viva Sanremo, fenomeno di costume. Questo fenomeno di costume dei cantanti comparsa, come scrive Repubblica. Sconosciuti più che comparsa. Ma questo volevano dire i colleghi di Repubblica. Vabbè, ma i santi l'hai detti. I santi l'ho detti guarda, il mio grande... oggi bisogna fare gli auguri a Rosario Crocetta e al vero leader in ascesa del PD, che è Andrea Orlando, che oggi compie gli anni. Hai letto, no? Beh, certo, dicono che secondo alcuni big vorrebbero sostituire con Orlando a Renzi. Ecco. E poi, se non sbaglio, Sposetti anche, no? Non è lui la persona a cui ha demandato. Ma guarda, il patrimonio, capisci che è la cosa fondamentale, Danè. Quindi, Tutti questi retroscena della politica, ma perché la politica da anni si è trasformata in retroscena e mai una cosa, no? Ci sono sempre delle cose, frasi smozzicate, frasi l'ha detto ai suoi, telefonate che però tra due privati che però finiscono sui giornali, non si sa perché. Però quello è diventato il modo attraverso cui la politica fa scrivere i giornali, che hanno questa modalità, dicendo magari i direttori non la considerano molto positiva, però dicono se non lo facciamo noi lo fanno altri. I leader politici hanno squadroni di addetti che ti dettano il pezzo, dicendo ha detto, ha fatto, pensa, no? Certo. Allora oggi tra l'altro sulla Stampa ci sono due pagine con tanto di tutto quello che guadagnano i conduttori più famosi in Rai. Sei mesi di stipendi appalti, non so, per esempio Santoro 2,7 milioni, ma non come stipendio, alla sua casa di produzione. Antonella Clerici 3 milioni in due anni, lordi, 3 milioni in due anni. Anche Flavio Insinna più o meno, Lucia Annunziata 460.000 euro a stagione, Piero Angela 1,8 milioni in tre anni, Massimo Giletti, insomma tutti gli stipendi. Vogliamo salutare Giancarlo Mazzucca, che è membro del CDA della RAI? Buongiorno a tutti. E grazie di essere qui. Grazie a voi. Ma voi li sapete gli stipendi al CDA della RAI? Cioè gli emolumenti? No, assolutamente no. Degli stipendi degli artisti. Noi dunque c'è stato un mese e mezzo fa, in base all'ultima legge approvata dal precedente governo, abbiamo stabilito il tetto dei 240.000 euro all'anno per i dirigenti, i giornalisti della RAI. Sul discorso degli artisti è assolutamente diverso, perché ognuno ha chiaramente un cachet diverso, e finora tutti quanti si sono arroccati sul fatto che non si può ridurre troppo il compenso all'artista, perché sennò la concorrenza ce l'avrebbe presa, quindi era depauperare il patrimonio della RAI per quanto riguarda gli artisti. Ora però, di fronte anche a quest'ultima legge, noi abbiamo chiesto ufficialmente, l'abbiamo ribadito anche nel consiglio di amministrazione di ieri, con una lettera al Ministero dell'Economia, che è il nostro azionista, di stabilire se anche gli artisti debbono rientrare in questo tetto dei 240.000 euro oppure all'anno no. O no. Ecco, sì, pare di no, pare di no poi... avere questi, però, questi la, Mazzucca, no, avere questi stipendi pare di no. La risposta al Parlamento, appunto no, e quindi appunto dobbiamo dire se adesso da d'ora in poi questi qui rientreranno o no. Ecco, però Mazzucca, la risposta non deve essere il Ministero dell'Economia che Mazzucca. Ecco, Mazzucca, nel frattempo la risposta alla vostra lettera l'ha già data la maggioranza, perché ricordo agli ascoltatori, ma tu sicuramente lo sai, che quando l'Istat 3 mesi fa disse la RAI fa parte del perimetro pubblico, che rafforzava ulteriormente quindi il rispetto del tetto di 240.000, il governo e l'azienda per primo, il Campo dall'Orto, chiese al governo di intervenire dicendo no, perché questa roba ci impedisce di pagare molto di più, come hai detto tu, le star e i conduttori per la concorrenza, e infatti nel decreto di fine anno la norma è stata fatta cadere. Allora, quindi a mio giudizio, dimmi come la pensi tu, ma questa storia che queste retribuzioni servono, perché altrimenti concorrenti, è la classica dimostrazione di un servizio pubblico che è commerciale quando vuole e pubblico solo perché ha bisogno del canone, perché questa è la classica logica di una televisione commerciale. Peccato però che gli diamo il canone da servizio pubblico. Perfetto, sono d'accordo. Sono assolutamente d'accordo, per questo noi abbiamo chiesto comunque una sollecitazione, nonostante appunto quel discorso della deroga, perché secondo me non è giusto, quindi anche loro dovrebbero rientrare in questo plafond, perché sennò altrimenti un servizio pubblico deve essere un servizio pubblico in tutto e per comunque, tutto. Comunque, cioè, oggi sulla stampa appunto questo documento di compensi che finora erano riservati, scrive la stampa, e hanno avuto un documento interno, anche questo Mazzucca bisogna capire, il documento succede, che succede spesso ultimamente. Succede spesso. Ma com'è che voi non sapete? Ecco, questo a me è stupito. Cioè, i membri del CDA della RAI, cioè del consiglio di amministrazione, non sanno, non vedono i contratti con le cifre degli dei conduttori RAI. No, perché appunto noi approviamo le linee generali, ma poi nel particolare, nonostante le nostre richieste, finora non c'è stato. Anzi, l'ultima legge di riforma del vertice RAI ha demandato, delegato tutti i poteri all'amministratore delegato, e i consiglieri d'amministrazione contano molto meno rispetto a prima. Noi anche ieri c'è stata una lunga battaglia perché sulla vicenda Gabanelli, che era stata assunta come vice direttore per l'informatica, per tutta la realizzazione della piattaforma digitale della TV, era stata appunto ingaggiata meno di un mese fa, all'inizio di gennaio, e il CDA l'ha preso dai giornali ufficialmente. Ecco, quindi anche ieri c'è stata una lunga battaglia, il direttore generale Campo dell'Orto ha riconosciuto questo errore, comunque avrebbe dovuto dircelo, non era obbligato, perché le nomine del CDA valgono soltanto per i direttori, ecco lì, allora c'è un parere del CDA, altrimenti per le nomine sotto la direzione il direttore può procedere per conto suo, però sarebbe stato giusto e legittimo anticipare la cosa, quindi c'è stata molta battaglia. Speriamo che d'ora in poi qualcosa, questa battaglia, serva per cambiare le cose, così effettivamente il CDA conta ben poco. Conta ben poco, così com'è. Beh, insomma, non è. Tra l'altro, Mazzucca ha ricordato che non guadagna nulla per il CDA della RAI, no? Questo lo diciamo perché sennò gli ascoltatori dicono: è vera questa cosa che non prende lo stipendio? Io sono gratuito, io e altri 3 colleghi che sono pensionati. Essendo pensionati, non abbiamo diritto, in base alla legge Madia, a nessun compenso. La cosa è abbastanza strana. Ti segnalo a questo proposito che c'è una sentenza della Corte dei Conti, controllo erariano, sezione Sicilia, che a proposito di questa norma dice è anticostituzionale, perché viola l'articolo della Costituzione che dice che non si può prestare il lavoro gratis, e riguarda esattamente per i pensionati della pubblica amministrazione i ruoli sia di consulenza che di lavoro, quindi te la segnalo perché ricadi esattamente in questa pronuncia della Corte dei Conti. Io lo sapevo anche perché ho parlato appunto anche con un giudice costituzionale. Questa norma è anticostituzionale perché non ci può essere un organo in cui metà appunto riceve un compenso e metà non riceve niente, non esiste. Però perché qualche giorno fa abbiamo visto non so se uno sfogo, una critica sulla questione del contratto a Milena Gabanelli, che è stata assunta come vice direttore in RAI. Perché? Cosa c'è che non va in questa... No, assolutamente, come ho detto prima, Milena Gabanelli è un'ottima giornalista, io ho una grande stima di lei, ma proprio perché è un calibro molto importante, chiaramente sarebbe stato auspicabile che il direttore generale ce lo comunicasse in anticipo, ne potessimo discutere, anche perché secondo me Gabanelli poteva avere anche un ruolo diverso dal settore di curare la piattaforma digitale. Secondo me la Gabanelli è bravissima a fare inchieste giornalistiche e poteva essere utilizzata e valorizzata nella sua maniera naturale. Sì. E quindi non c'è stata assolutamente, anche se qualcuno ha scritto che io sparavo al zero contro la Gabanelli, ma c'è stata una critica al metodo, il fatto che non devono aver saputo, anche in questo caso aver saputo dai giornali, dell'assunzione della Gabanelli come vice direttore. Ah, va bene, è questo. Allora, va bene, sulla questione degli stipendi, è giusto pubblicarli oggi per dire Bruno Vespa un minimo garantito di 1.800.000 euro nel secondo semestre 2016. Ha incassato anche 1 milione di euro in più, eccedenti, sono 2.800.000, accidenti. Sarà un problema che appunto chiariremo molto presto, perché effettivamente non ci possono essere scompensi di tale levatura. Effettivamente, ma è giusto saperli questi stipendi? È giusto e opportuno. È opportuno. Anche perché nel momento in cui la RAI è un servizio pubblico, nel momento in cui richiede una bolletta, deve essere tutto trasparente, non solo per i consigli di amministrazione, ma anche per gli utenti. Senta, Mazzucca, ma una cosa almeno, i conti, almeno quello, il consiglio di amministrazione, voglio dire, Campo dall'Orto, dovrà alla fine coinvolgervi, perché altrimenti a cosa serve? No, questo sì. Ecco, allora, il problema è, abbiamo messo il canone in bolletta. Il canone in bolletta fa diminuire verticalmente il tasso atteso di inadempienza al pagamento, eppure tutti abbiamo letto i pezzi nell'ultimo mese per cui il vertice aziendale e amministrativo finanziario della RAI sarebbe terrorizzato perché mancano le risorse e si fanno più perdite di prima, malgrado le maggiori entrate. Ma voi cosa sapete dell'equilibrio finanziario della RAI, malgrado l'aumento delle entrate? Ne abbiamo parlato proprio ieri nel Consiglio di Amministrazione. Dunque, c'è un discorso, da una parte è diminuito chiaramente, è stato anche uno dei grandi fautori di questa legge, perché era appunto un modo per combattere l'evasione, non era giusto che una parte dei contribuenti pagasse il canone e un'altra bellamente se ne fregare. Insomma, in questo modo c'è stata una riduzione drastica dell'evasione. Ma cosa è successo anche? Che mentre fino a 2 anni fa il canone era di 110, l'anno scorso è sceso a 100 euro all'anno e quest'anno è sceso a 90, quindi con una riduzione abbastanza sensibile da 110 a 90. Una parte delle entrate del canone non vengono direttamente alla RAI, ma se le incamera lo Stato per altri fini, quindi soltanto una parte di quel canone passa direttamente alla RAI. Questo ha provocato che, paradossalmente, che invece di essere un grande vantaggio per la RAI, rischia per i conti della RAI di essere un boomerang. Tant'è vero che ieri è stata un po' esaminata la necessità di contenere le spese anche per i programmi del 2017, proprio per cercare di arrivare al pareggio. Magari qualcuno di questi trattamenti di cui leggiamo oggi nel documento, qualcuno si può limare. E anche quello, giustamente, anche quello, serve perché non è possibile appunto chiudere in passivo anche per questi trattamenti astronomici. Poi se vanno alla concorrenza, pazienza. Questo è. Grazie. Ce ne faremo una ragione. Intanto grazie a Giancarlo Mazzucca. No, ma ricordiamoli, perché che poi Oscar qui sembra sempre di volere instillare un odio sociale lungi da noi. Io mi limito a ricordare che c'era chi aveva promesso la cessione di 2 reti proprio perché non facevano servizio pubblico, capisci? L'ex presidente del Consiglio. Io mi scandalizzo più per quello che per questo. Allora, oggi la stampa dice Antonella Clerici 1.500.000 l'anno, lordi. Luce Annunziata 460.000 euro l'anno, Flavio Insinna 1.420.000 l'anno, Bruno Vespa 1.800.000 più 1 milione extra ha preso per cosa in più, Giletti 500.000 più 313.000 extra, E vabbè, è così, insomma, comunque li trovate. Piero Angela, 1.800.000 in 4 anni, però, in 4 anni. Se fai il paragone con altri che forse non hanno il suo peso, povero Piero. Povero, sì. No, povero. Ma io non faccio nomi, no, però se fai il paragone Michele, con a Michele Santoro, che... 2.700.000, ma alla sua casa, alla di sua produzione, casa di produzione, non a lui, ovviamente, poi lui confeziona dei prodotti. Vabbè, questo è. Ci chiama Marco, invece, dalla provincia di Milano. Buongiorno, Marco. Buongiorno, Alessandro. Buongiorno, Oscar. Eccoci. Ascolta, io volevo solo dare una mia, io ho 31 anni, volevo dare una mia opinione sul ragazzo che ti ha citato. Niente, io dalla mia prospettiva ho un lavoro, ho una famiglia, ho una bambina di un anno, un'altra bambina in arrivo, cioè nel senso voglio creare, voglio pensare di poter avere un futuro io come famiglia e dare un futuro ai miei figli, alla mia famiglia che sto creando, però oggettivamente è tutto molto deprimente il futuro che io vedo. Cioè, io ho tentato di andare all'estero, però purtroppo a causa della mia infanzia non ho studiato e non ho le possibilità per andare fuori. Ma questo paese a me non mi regala niente. Cioè, non è che non voglio che mi regali ecco, qualcosa. Esatto, regalare no. Non dà opportunità. Non dà la possibilità di fare niente. Se io volessi fare qualcosa per i miei figli, cioè non posso fare nulla. Io lavoro, posso lavorare 10, 12, ho fatto anche 15 ore di lavoro al giorno, ma alla fine voglio fare qualcosa di concreto, non c'è nulla. Mia moglie non è tutelata, ha fatto 2 gravidanze, non è tutelata, deve per forza andare a lavorare perché non posso mantenerla. Ma Marco, lei... perché dice non posso fare nulla? Cioè, in che senso? Io che cioè, a parte che lavora, cioè già lavora. Ma certo, ma io lavoro, ma il lavoro che io faccio non è retribuito abbastanza per poter avere un futuro o un qualcosa. Ma cioè, non è che sono io nella situazione dove prendo uno stipendio basso. Sì. È uno stipendio che è così. Cioè, la gente parla di 1.500-1.600 euro stipendi base, ma io nella realtà che vedo di ragazzi come me, cioè, per prendere 1.600 euro vuol dire che tu devi aver fatto università su università, entrare nel mondo del lavoro a 33 anni, avere la fortuna di trovare un lavoro buono e prendere uno stipendio che parta così, perché gli stipendi sono 1.000 euro. Cioè, gli stipendi... Come fate a comprare una casa? Io ho comprato una casa grazie a sforzi che ho fatto e alla fortuna di prendere una casa quando davano i mutui a cani porci, se no non avrei neanche potuto comprare una casa. Marco ci sta dicendo, insomma, che gli stipendi soprattutto sono stipendi molto livellati verso il basso. Io non te l'ho detto, non gli consento, io non ho dubbi che la lettera del trentenne susciterà oggi in Italia, in chiunque la legge, nel Trova Notizia eccetera, motivo di vasta riflessione. Allora andiamo un attimo in pubblicità, poi riprendiamo dagli ascoltatori e da altri temi, state con noi. 24 mattino, attenti a noi due. Eccoci caro Oscar, c'è Leo da Latina che è lì da un po' e lo ringraziamo, eccoci Leo. Buongiorno. A tutti, ciao Oscar, ciao eccoci. Mina. Eccoci. Io volevo fare una riflessione un po' amara, da un osservatorio che è quello familiare, perché ho 3 figli, anche i primi 2 abbastanza grandi, ed un osservatorio di dirigente di un'azienda, no? E dico questo, dico che noi abbiamo preparato i nostri giovani ad un mondo che in realtà non c'è. Abbiamo proposto loro un modello educativo fatto di un mondo dove c'è giustizia, dove ci sono delle regole da rispettare, dove si ha una cultura, hai delle opportunità. E poi questa generazione che noi abbiamo formato così, anche con enormi sacrifici, facendoli studiare, facendoli anche a accedere, no, a delle tecnologie, anche a delle, diciamo così, opportunità di studio, eccetera. Quando questi giovani si calano nella realtà, vedono che ciò che noi gli abbiamo proposto semplicemente non esiste. E non solo non esiste, ma non li abbiamo neanche preparati alla vera competizione che c'è nel vero paese dove noi viviamo. E quindi reazioni come quelle di quel ragazzo, la depressione di tanti giovani che arrivano a 34, a 35 anni con una laurea in tasca, con contratti di 20 giorni a 1.100 euro al mese, la depressione dei migliori del nostro paese, che sono i nostri ricercatori, che hanno contratti di 800, 900 euro al mese e fanno ricerca su materie fondamentali per il nostro futuro, questi si schiantano sulla realtà. Noi la dobbiamo smettere di proporre un paese che non c'è, perché poi loro però lo io non lo so se dobbiamo smettere di proporre un paese che non c'è, perché così corriamo il rischio di autoavvitarci e di giustificare il fatto che ciascuno può... non lo so, ci sono delle ragioni precise, ci dovremmo occupare di quelle, perché sennò diventa il racconto di generazioni perdute perché il paese è così. Allora tanto vale dire andiamo tutti a fondo, mentre non mi sfugge che si alimentano atteggiamenti di questo tipo. Non so, io credo che dobbiamo cambiare delle cose concrete, cioè invece che pensare a un mondo del lavoro in cui ci si entra solo per relazioni e cambiare quella roba lì, e invece di rassegnarci la pubblica amministrazione tutti i giorni, no? Ieri avevamo gli esempi degli arrestati perché si vendono per i permessi di soggiorno, che ne so, oggi a me ha colpito Lorenzo Salvo, quella della sera scopre che la motorizzazione civile e l'ACI dovevano unificare il documento di proprietà delle auto 3 anni fa, l'hanno fatto? No, perché sennò l'ACI è di troppo e l'ACI si autogiustifica. La politica cosa ha fatto? Allarga le braccia, ma viva l'ACI, tanto pagate voi, no? Ieri il ministro Padoan certo, lo spread ci ricorda che bisogna tagliare il debito pubblico. Ministro Padoan, lo ricorderà a noi che lo paghiamo. Tu sei il ministro da anni, tu dovresti ricordartelo ogni minuto della tua vita, capisci? Non venirci a dire che ce lo ricorda. E fino a ieri ci dicevi che sarebbe sceso secondo i tuoi conti, caro ministro Padoan. Quindi noi ci ricordiamo che tu ci hai detto che scendeva, adesso tu ci dici che... Ecco, allora, queste cose qua, secondo me, dobbiamo iniziare a cambiare, perché pezzo dopo pezzo, poi anche i giovani, forse le promesse che gli facciamo, se si impegnano per una laurea, un posto di lavoro, si adempiono. Altrimenti, relazioni e discrezionalità, questo è quello che succede in Italia. C'è da dire che sui giornali invece non ha avuto ampio risalto questa notizia. Ricordate che a Roma si parla di mafia capitale. Quante volte l'avete sentita? Mafia capitale, c'è un processo per mafia capitale. È peccato che ieri per 113 su 116 imputati di mafia capitale è caduta questo tipo di imputazione. Il GIP ha... ordinato l'archiviazione. Sì, certo, rimangono in piedi accuse di corruzione, però il associativo. Tema mafia non c'è più, cioè questa parola almeno per 113 su 116 loro. Compresi tutti i politici, di tutti i colori, eccetera, esatto. Allora, Carlo Bonini, giornalista di Repubblica, che firma sempre inchieste molto interessanti. Carlo, buongiorno. Buongiorno a voi. Che vuol dire? Dovremmo cancellare... oggi Mattia Feltri sul Buongiorno della Stampa dice ma continueranno a chiamarla mafia capitale. Continueremo a dire mafia capitale. Però non c'è più questa cosa, mafia capitale, o c'è ancora? Ma insomma, dire che non c'è più, nel senso che la questione non c'è più, mi sembra francamente un po' precipitoso, ma non per altro, perché diciamo, se la raccontiamo così, diciamo, questa archiviazione del GIP, la conclusione non può che essere quella. Siccome peraltro il GIP ieri porta a compimento una richiesta avanzata dalla procura, quindi diciamo era stata la stessa procura a chiedere queste, che non sono poi, sono 116, ma non sono 116 posizioni diverse. Molti sono capi di imputazione, in alcuni casi sono capi di imputazione che riguardano imputati che ormai da quasi 2 anni stanno rispondendo, diciamo, dei reati principali nel processo che si sta celebrando a Roma. Sì. Tecnicamente, diciamo, si chiama ripulitura dei fascicoli. Quando comincia un'inchiesta, come una grande inchiesta, intendo dire grande in termini, diciamo così, di numero di indagati, di imputazioni, le iscrizioni sono molte. Tenete presente che, ve lo ricorderete, gli ascoltatori lo ricorderanno, 2 estati fa Salvatore Buzzi decide, chiede di essere interrogato nel carcere di Babbe Carros, dove allora era detenuto, e per 3 giorni riempie centinaia di pagine di verbale accusando sostanzialmente, diciamo così, 3 stagioni della politica italiana. Addirittura arriva a parlare anche del capo dell'allora capo dello Stato Napolitano, e quindi diciamo il numero degli indagati al rimorchio del processo principale si è andato gonfiando. Ora qui possiamo discutere, potremmo discutere all'infinito, se la semplice, diciamo così, chiamata in correità, pur in assenza di prove o di elementi di prova, debba comportare o meno l'iscrizione al registro degli indagati. Sì. Questo, come sapete, è una discussione che ci portiamo dietro da tempi manipolati. Però quello che voglio dire è che mi sembra, molto francamente, che la decisione del GIP, il tipo di archiviazioni, tranne, e ci arrivo subito, se volete ci arriviamo subito, tranne forse una sola posizione, sì, una sola, quella cioè dell'ex sindaco Gianni Alemanno, per il resto mi sembra che non spostino significativamente, anzi non spostino affatto, la questione che resta sub iudice, quindi resta aperta, se a Roma c'è stata mafia oppure no, e mi sembra che tutto sommato, se sommiamo questa, diciamo, questa ripulitura, questi numeri, con i numeri di chi in questi quasi ormai due anni ha scelto riti alternativi dei tanti indagati, dai giudizi immediati ai giudizi abbreviati, ai patteggiamenti, non mi sembra che siamo, cioè, possiamo trarre quel tipo di conclusione. Lo dico, ti ripeto, con tutta sincerità e insistendo, dicendo che la questione principale invece resta sub iudice e ha un esito tutt'altro che scontato, in un senso. No, chiaro, però il fatto che il reato associativo cada è un qualcosa, insomma, ci abbiamo campato anche i giornali, no, per sì, anni. Sì, no, no, il reato associativo cade rispetto, ripeto, rispetto a tutta una serie di indagati, ma come io penso, insomma, diciamo, come è giusto peraltro che sia, quando non è stata raggiunta una prova, o addirittura quando non sono stati raggiunti elementi tali, perché per questo in genere questo è il motivo per cui sono state chieste queste archiviazioni, elementi tali che consentano di andare a un processo, cioè elementi tali che, se si andasse a processo, questo è il ragionamento, con gli elementi che la procura aveva nei confronti di questi indagati, il processo non sarebbe andato da nessuna parte, sarebbe stato semplicemente uno spreco di tempo e di denaro. Sì. Dopodiché, ripeto, a questo punto uno può fare la domanda legittimamente, ma valeva prima, anche prima, insomma, a maggior ragione dopo queste archiviazioni, e cioè se gli imputati oggi nel processo di Mafia Capitale, i loro profili, le loro storie, i fatti di cui sono accusati, autorizzano o meno a trarre la conclusione che a Roma ci fosse meno la mafia. E questo però, diciamo, è la questione con cui questo processo si è aperto. Io credo che sin qui ci siano stati, diciamo, durante il dibattimento, io lo seguo, diciamo, non quotidianamente, ma insomma, sto seguendo il dibattimento, io credo che ci siano stati passaggi sin qui, momenti in cui questa accusa ha ricevuto conferme in aula, ce ne sono stati altri in cui invece è stata messa, io credo, seriamente in discussione. Adesso ricordo, diciamo, si possa parlare di mafia in un processo in cui un paio di testimoni importanti ritrattano in aula e ritrattano spiegando perché hanno ritrattato, sostenendo che se avessero detto quello che avevano detto in istruttoria sarebbero stati dei cani morti una volta fuori dall'aula. Credo che abbia segnato dei punti la difesa quando il magistrato come Raffaele Cantone, deponendo in aula, dichiara, sostiene che il quadro da lui osservato dall'osservatorio dell'autorità nazionale anticorruzione non gli avrebbe consentito di concludere che quel tipo di corruzioni avevano, diciamo così, allora, il primato o l'imprenditore mafioso. Allora, grazie Carlo Bonini, fermiamoci qui. Caro Oscar, oggi saremo, sei pronto? Serata 2? Dai, mi si è bloccata la schiena. Va bene, insomma. Sai che non me la sto inventando perché mi vedi contorto qua. Quindi. Va bene, va però bene. Accetto, io lo so che vedere gli italiani, vedere la De Filippi intimidita, questo è vero. No, cioè questo sarebbe. Capito? La De Filippi un sta po'... recitando, però tutti credono che sia vero. Esatto. Dai, a domani!